Baldone, un programma in italiano non solo per italiani. In onda tutti i venerdì su Radio Contrabanda a Barcellona. E buon pomeriggio, bentrovati qui su Radio Contrabanda su Zibaldone, nuova puntata dedicata a chi? Sentite questo brano. Il Gran Khan possiede un Atlante i cui disegni figurano l'orbe terraqueo tutto insieme, e continente per continente i confini dei regni più lontani, le rotte delle navi, i contorni delle coste, le mappe delle metropoli più illustri e dei porti più opulenti. Ne sfoglia le carte sotto gli occhi di Marco Polo per mettere alla prova il suo sapere. Kublai domanda a Marco: quando ritornerai al ponente? Ripeterai alla tua gente gli stessi racconti che fai a me? Dice Marco: chi mi ascolta ritiene solo le parole che aspetta. Altra è la descrizione del mondo cui tu presti benigno orecchio, altra quella che farà il giro dei gondolieri il giorno del mio ritorno, altra ancora quella che potrei dettare in tarda età se venissi fatto prigioniero da pirati genovesi e messo nella stessa cella con uno scrivano di romanzi d'avventura. Chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. Io non so se avete capito di chi parleremo in questa puntata di Zibaldone, questo 8 dicembre 2023. Banzo, secondo te i nostri ascoltatori l'hanno capito? Forse sì, tu che dici? Bentornato a Zibaldone. Buon pomeriggio a te, Steven, buon pomeriggio a tutti. Devo cominciare la puntata per forza così. Beh, diciamo che ad ogni modo da questo primo estratto sonoro si può scartare agevolmente l'ipotesi che sia una puntata dedicata alla Madonna oggi 8 dicembre. E, beh, io non avrei avuto tantissimo da... Beh, forse da dire ce l'avremmo anche avuto, ecco, non sarebbe stato politicamente corretto. Esatto, mi sono interrotto perché stavo andando in quella direzione, mi hai capito benissimo, ormai siamo quasi a livello di telepatia, di Franco e Ciccio. Anche... sì, Franco e Ciccio, Batman e Robin, e comunque non abbiamo ancora affrontato l'annosa questione, perché la stiamo trascinando un po', del tema della puntata, perché questa puntata dell'8 dicembre parleremo di Italo Calvino, del quale è ricorso nel corso di questo 2023 che si sta per concludere il 100° anniversario della nascita, è stato il 15 ottobre per la precisione. Esattamente, Calvino, la Spagna e la musica, vogliamo offrire una visione un po' particolare perché ci sono stati tanti omaggi a Calvino in questo 2023, però insomma della sua relazione ad esempio con la Spagna, con Barcellona, con la letteratura spagnola e anche latinoamericana si è parlato molto poco, e di questo parleremo con l'ospite di questo Zibaldone, che è Francesco Luti, scrittore, professore di letteratura italiana presso l'Università di Barcellona, che ha lavorato molto anche su Calvino e sulle sue relazioni appunto con la Spagna, e poi appunto tanta musica. Abbiamo cominciato, Banzo, con questo frammento delle Città Invisibili di Calvino letto da Giovanni Succi accompagnato da Rodrigo d'Erasmo con al violino e agli effetti, avete sentito qualcosa di sottofondo, però ecco, poi invece ci saranno cose molto più particolari e molto più musicali, per così dire, come anche il prossimo brano, Banzo, di un artista che proprio un anno fa è stato anche in concerto qui a Barcellona, ligure come Calvino lo era d'adozione, di Sanremo, stiamo parlando di Zibba. Sì, brevemente su Succi posso dire che il reading si era tenuto al Teatro Sforzesco di Milano il 4 settembre, e concludo con questo. Sì, Zibba ha pubblicato da pochissimo, il 10 novembre, un nuovo album che si intitola La città dall'alto, e devo dire che mentre preparavo la puntata ho finalmente capito il senso della copertina, che mi sembrava astratta, è una copertina molto bella, invece rappresenta proprio il concetto del titolo, ed è una specie di concept, i concept, questa cosa che nell'epoca di Spotify continuano ad esistere, concept ispirato alla raccolta di racconti di Calvino, Ultimo viene il corvo, e andiamo ad ascoltare un brano da questo album. Sì, si dorme come, come cani, questo è il titolo della Città dall'alto di Zibba, l'ultimo viene il corvo, è una raccolta di Calvino del 1949 e il disco appunto di Zibba si rifà a, questo, a questa raccolta di Calvino. E poi subito parliamo con Francesco Lutti di Calvino e la Spagna, per ora andiamo a sentirci questa canzone appunto di Zibba, Si dorme come cani. Ti sposerò sul pavimento, lame di freddo, ossa poi pietra, occhi di sabbia, sabbia che pesa, partirà un treno, io sul tuo seno, le sigarette nazionali, qui si dorme come cani, come cani. Gomiti e luce, le grida disumane, portami buio, portami pace, sei notti ancora, poi ancora sempre, carne che chiama, caldo che spegne, io così triste, lei così bella. Il pugno in alto, poi la bestemmia. Io così triste, lei così bella. Il pugno in alto e la bestemmia. Le sigarette nazionali. Qui si dorme come cani, come cani. Vorrei tagliare le mie mani e piangere fino a domani, fino a domani. La la la la. La la la la. Vorrei tagliare le mie mani e piangere fino a domani. Lascio tutto, fosse anche niente, cani per strada, padri per sempre. E abbiamo ora in collegamento telefonico con noi Francesco Lutti, professore di letteratura italiana presso l'Università di Barcellona e scrittore, si è occupato molto dei rapporti tra gli autori italiani del dopoguerra e la Spagna, in particolare Italo Calvino, a cui dedichiamo questa puntata di Zibaldone. Francesco, bentornato al nostro programma, era da tempo che mancavi ed è un piacere averti di nuovo con noi. Grazie Steven, sì, anche per me è un piacere, torno sempre volentieri da voi, in effetti è da un pezzo che non mi sentivate. Son contento perché l'occasione di Calvino è un'occasione importante per la letteratura italiana e non solo. Assolutamente, proprio così, è un anno calviniano, se ne è parlato tanto di Calvino e noi, come abbiamo annunciato in apertura di programma, vogliamo parlare di Calvino in un modo particolare che in fin dei conti ha a che fare anche con noi, con il nostro programma in lingua italiana qui a Barcellona e appunto ha a che fare con i rapporti che Calvino ha avuto con la Spagna, un tema, Francesco, di cui in genere se ne è parlato molto poco. Sì, è un tema di cui si è parlato molto poco, ma io diciamo è da anni che che lo tratto e che ne scrivo, eccetera. E ultimamente poi mi sono occupato della presenza di Calvino non solo in Spagna, ma soprattutto a Barcellona. Assolutamente, certo, parliamo proprio di questo, il legame, diciamo, di Calvino con Barcellona. Che legame è stato? Raccontaci un po', quando inizi e di che si tratta? Allora, in un anno importante per Calvino, il 59, un anno in cui lui arriva per la prima volta sul territorio spagnolo, atterrando proprio a Barcellona, perché l'indomani si sarebbe recato al premio, al primer colloquio internazionale sobre novela a Formentor, a Palma di Mallorca. Importante poi anche accennare a questo premio. Questo è stato il primo, la prima volta che mette piede sul territorio. Lui aveva dei contatti già da 2 o 3 anni con la Saix Barral e soprattutto con Carlos Barral e José María Castellet. i quali lo invitano a partecipare a questo primer colloquio che vedeva, diciamo, ancora non erano nati i famosi premi Formentor. I premi Formentor verranno, diciamo, creati da Barral su suggerimento di Calvino e anche dell'editore Giulio Einaudi. Ossia, quando Calvino mette piede per la prima volta sull'isola via Barcellona, si gettano proprio lì le basi per il premio Formentor, il premio internazionale degli editori, che cominceranno ad assegnarsi nel 61. Lui aveva convinto, Italo aveva convinto Giulio Einaudi a recarsi a Barcellona al più presto. Infatti Einaudi e la moglie Renata viaggeranno a Barcellona prima e poi alle Baleari, anche loro però nel mese di settembre. I premi invece, diciamo, i premi, quei giorni di Formentor erano giorni di maggio, ecco. E lì a luogo a settembre la famosa passeggiata sulla spiaggia di Calafell, che è tanto celebrata da Barral nelle sue memorie, perché lì Barral praticamente si mette d'accordo e chiede consiglio a Giulio Einaudi di come si deve agire per come dire, creare una vera e propria casa editrice. E lui lo consiglia, Giulio lo consiglia intanto di avere un catalogo, e poi che gli promette che lo aiuterà a entrare in contatto con i principali editori europei. E questo è importante perché il principe dell'editoria italiana, come lo chiamavano allora, certo, diciamo, vince le resistenze dei principali editori europei e non solo a partecipare a Formentor. Quindi in un punto dell'isola di Palma di Maiorca, loro erano un po' reticenti, ecco, e lui insistette dicendo: qui bisogna rivendicare i valori democratici della cultura e voi dovete venire. E allora arrivarono Gallimard, eccetera. Ecco, questo è un po' il primo contatto. E questo è un momento, tra l'altro importante, perché ovviamente, insomma, stiamo parlando di un premio che poi ebbe una grande risonanza, un grande valore anche appunto per la difesa della cultura democratica, con anche poi delle vicende che hanno coinvolto Einaudi in primo luogo, ma anche Calvino e poi anche i Cantacronache, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa qui a Zibaldone. Senti, di fatto fu il primo, lo chiamavano l'antinobel, no, per intendersi. Il primo vero incontro di editori internazionali come dire, rivitalizzava un po' l'orizzonte della cultura spagnola. Pensa che c'erano non solo editori italiani che poi arrivarono, come Bompiani, Feltrinelli, Mondadori poi negli anni successivi, no? Ma anche passarono da Palma di Maiorca gente come Carlo Levi, Alberto Moravia, Piovene e soprattutto Elio Vittorini. Non dimentichiamoci che nel 59 era nata la rivista Il Menabò di Letteratura e sì, Calvino era il condirettore insieme a Vittorini. Poi, come accennavi te, io immagino tu volessi arrivare a quando Franco considerò persona non grata Giulio Einaudi, e quindi certo, i premi nel 62, e che dettero luogo a un processo, eccetera, a Varese. Il povero Calvino gli toccò come dire, deporre in aula, eccetera. E chiaro, i premi non morirono, ma si spostarono, divennero itineranti e andarono prima in Costa Azzurra, in Grecia, in Marocco, eccetera, fino al 67, quando poi il gruppo Einaudiano si tirò indietro, ma ormai Barral era avviatissimo sulla sua strada, ecco. Quindi voglio dire, è Calvino, diciamo, che in veste di osservatore attivo, con i suoi silenzi, i suoi ammiccamenti, come era lui, a intessere la tela di questi rapporti, io direi, non solo editoriali ma anche umani, ecco. Eh sì, qualcosa di molto importante. E a proposito del processo, no, che ricordavi appunto, che vide in fin dei conti poi da parte del regime franchista Giulio Einaudi considerato persona non grata in Spagna, ha molto a che fare appunto, lo dicevo, i Cantacronache, con una pubblicazione, I Canti della Resistenza Spagnola, in cui Michele Straniero, Liberovici, Margot, dopo aver viaggiato in Spagna e dopo aver raccolto, no, i racconti di molte persone antifranchiste avevano compilato una specie di antologia di canti della resistenza, ma in realtà non tanto solo della resistenza durante la guerra civile, ma anche canti poi popolari e questioni, diciamo, e brani anche nuovi scritti di pugno, e lì insomma entra Ciccio Sanchez Ferlosio e molte altre persone che hanno segnato la storia della cultura musicale della canzone d'autore spagnola. A questo proposito, Francesco, andiamo a sentirci una canzone, En España las Flores, che è appunto uno di questi testi contenuti nei canti della resistenza spagnola, che poi è stato inciso proprio da uno dei membri dei Cantacroniche con cui aveva collaborato anche Calvino. Parliamo di Margot, la voce di questa En España las Flores è sua. Poi ritorniamo qui insieme a te. En España las flores que nacen en abril no nacen de alegría, sí de dolores, sí de 3 años de tiros, de 3 años y 1000. Que resistió su pueblo solo contra el fusil. En España las flores no quieren ya vivir, porque el pueblo español murió en abril. Pero las flores vuelven, ¿quién las hizo morir? No sabe que las flores vuelven en cada abril. España nunca ha muerto, nunca puede morir. Al pueblo y a la flor no los mata el fusil, no los mata el fusil. E questa è la voce di Margot, En España las Flores, i canti della resistenza spagnola, qualcosa che ha molto a che fare con Calvino. Francesco, fuori onda parlavamo di Ciccio Sanchez Ferlosio, una figura assolutamente particolare e secondo me meravigliosa della poesia e della cultura spagnola della seconda metà del Novecento. Di sicuro, se non ricordo male, proprio in quei giorni era presente anche lui e quindi... sarà stata la volta in cui si sono conosciuti per la prima volta, e poi Ferlosio aveva rapporti, diciamo, per forza con l'Italia, era mezzo italiano, se non vado errato, certo, no? Certo. Ecco, quindi ritornando a quei giorni lì, ecco, che è la prima volta di Calvino in Spagna, poi lui torna nel 60, nel 61 e fino al 60, al 62. Poi si mantiene in contatto con i Barragliani e questo contatto è molto importante, perché io devo fare una precisazione. Io considero Calvino uno delle chiavi di volta per far entrare certi autori latinoamericani in Italia, e ti dico perché. Questa presenza in Spagna è stata decisiva, oltre a trasmettere, diciamo, l'urgenza per la letteratura spagnola di allinearsi a quella europea in profonda trasformazione, e chiudere, diciamo, un discorso con il realismo sociale e orientarsi su spazi nuovi, operativi, con delle responsabilità nuove per gli spagnoli, e chiudere anche lui è stato, e chiudere anche, Francesco, chiudere anche con l'isolamento della tappa soprattutto del primo franchismo. Esatto, poi vabbè, tu sai che poi con la legge della censura, poi a partire dalla metà degli anni 60 si allenta in Spagna, e poi ti dirò che non è dovuto alla censura il ritardo inconcepibile di Calvino pubblicato in Spagna. Però mi volevo un attimino ricollegare al discorso di Calvino come porta aperta e ponte non solo tra Italia e Spagna, ma una terza sponda, no? Mi viene in mente un bellissimo racconto che traducemmo con Antonio Tabucchi a lezione tanti anni fa, la terza sponda del fiume, no? Sì. La terza sponda del fiume è Latino America. Lui è stato, è grazie a lui, guidato da Barral, che dal 60 in poi l'Italia scopre alcuni scrittori sudamericani che stavano affermandosi. Tra il 50 e il 60, diciamo, i cataloghi della Seix Barral e quelli degli editori italiani nominati poco fa vanno nutrendosi vicendevolmente. Poi entra in scena, tu sai, il castrista Feltrinelli, no? Certo. Che prenderà, diciamo, la mano e aprirà Latino America. Einaudi si interessava, aveva altre collane, eccetera, quindi non si buttò sul Latino America. Però, insomma, Calvino lo pressava, diceva: perché non prendiamo i diritti di Cortázar? Perché non prendiamo i diritti di Rulfo? Perché non prendiamo Aleco Carpentier? E alla fine qualcuno gli sfuggì e qualcun altro poi se lo assicurarono. Ma Calvino poi, dal 62, quando conosce la moglie, e poi conosce in quel periodo in uno dei suoi viaggi a Parigi anche la coppia Cortázar, Aurora Bermúdez, che poi sarà la sua traduttrice in spagnolo dopo la fine degli anni 60, diciamo lui entra in contatto con questo universo latinoamericano che già frequentava ma in maniera indiretta. Ora con la moglie, a casa si parlava, a partire di lì si parlava poi lo spagnolo, lui diciamo entra in contatto anche direttamente con tanti autori. Mm. Ho detto Cortázar perché lui veramente divenne amico di Cortázar. Poi quando si trasferiscono a Parigi anche loro, i Calvino nel 67, per 13 anni, figurati, si vedevano spesso con Julio Cortázar. Julio Cortázar è un autore che non ha bisogno di presentazioni. Lui, voglio dire, manterrà nel decennio 60, nel decennio 70 grandi rapporti con il Latino America, non solo come, diciamo, personali, ma anche come mediatore culturale, come editor. Mm. E questo che credo sia importantissimo. Ascolta, è grazie a lui, ecco. Sì. Ascolta, anche grazie a lui. A questo proposito, Francesco, quanto ha pesato o ha pesato qualcosa il fatto che, per quanto si dice, no, si dica che Calvino sia di Sanremo, però in realtà lui è nato in altri lidi? Sì, infatti, io in un articolo che sta uscendo adesso per una rivista accademica con Erzn d'Italia, stavo dicendo che il primo vincolo, addirittura prima della moglie, è il vincolo della nascita. Lui nasce in un piccolo villaggio a Santiago de Las Vegas, a Cuba, vicino a La Habana, dove i suoi genitori, entrambi grandi botanici, ma botanici di grandissimo livello internazionale, si erano trasferiti lì, erano stati prima in Messico e poi a Cuba. Esatto, e quanto pesa secondo te poi anche in questi rapporti che ha con l'America Latina o con la lingua spagnola per Calvino, insomma, per quanto poi lui non ci abbia vissuto molto da bambino, da bebè, però ecco, quanto pesa questa memoria di essere nato in fin dei conti a Cuba, nel Caribe, in America Latina? Guarda, pesa molto perché i suoi genitori sono stati i primi a esportare certi tipi di frutta, eccetera, e parlavano continuamente di questi posti. Tra l'altro lui, una volta quando si incontrò con Astresa e con la Natalia Ginzburg, insieme a Natalia andarono a trovare Hemingway. Hemingway gli descrisse l'aldea dove era nato, no? Certo. E lui aveva questa voglia di tornare. E fu Cortázar che gli disse: guarda, Italo, vai alla Casa de las Americas a Cuba, dove lui poi si sposa con Cicita, vai e stai lì nel tuo viaggio di nozze, poi proseguiranno per il Messico e ritrova questi posti. E poi lui scriveva anche delle lettere commoventi alla mamma, alla madre, che come sai morì oltre novantenne, che praticamente gli ricordava le persone che lo stavano accompagnando in quei giorni a Cuba, si ricordavano ancora dei genitori, quindi fa nomi e cognomi, è molto bello, e ci sono delle lettere molto belle su Cuba e su queste risonanze, questi echi che lui cercava di riportare alla mamma, ecco, nella lettera. Ascolta, e invece per quanto riguarda la presenza di queste sue, la presenza dell'America Latina, ma della Spagna anche più direttamente, nella letteratura di Calvino, cosa ricorderesti? Diretta o indiretta, implicita o esplicita? Senti, molto Latino America, Messico, dei suoi viaggi, poi viene fuori gli ultimi libri in collezione di Sabbia, Una pietra sopra, ma soprattutto Palomar. La Spagna mi viene da pensare subito a Barcellona, dove lui fa ritorno nel 1980, nell'aprile dell'80, in occasione della presentazione di una collana narrativa di Bruguera. Lui viene per presentare il Se una notte d'inverno viaggiatore, appena tradotto in spagnolo, torna a Barcellona, ci rimane una notte a Barcellona e la mattina, non la mattina del suo intervento, ma la mattina dell'altro giorno in cui aveva a disposizione, va allo zoo. E allo zoo scopre questo gorilla albino copito da neve, che appare appunto in uno dei capitoli di Palomar. Quindi lui torna a Barcellona nel 1980 e gli dedica un capitolo a Barcellona e in questa fattispecie a Copito da Neve. Ma c'è una cosa che non tutti sanno, è che io in questi ultimi mesi ci ho un po' lavorato, ho scoperto che questo pezzo di Palomar, diciamo così, pubblicato in volume, aveva una coda molto più lunga, voglio dire, aveva una seconda parte molto più ampia, dedicata a uno scrittore uruguaiano, Juan Carlos Sonetti, che è un premio Cervantes in quell'anno, nell'80, era esiliato e visse dal 75 in poi a Madrid, esiliato, e che Calvino già aveva letto nelle edizioni feltrinelliane. Poi a partire da quel 1980 convincerà a Einaudi ad acquisire i diritti dei racconti di Onetti. Lui in questa seconda parte appunto raccontava dell'incontro dove lui conosce la sera al Princesa Sofia, si incontra con il vecchio scrittore malandato da un punto di vista di salute ed esiliato Juan Carlos Sonetti, e la prima cosa che gli viene in mente nel presentarsi, gli dice: guarda, io sono andato allo zoo stamattina e ho pensato a te, perché il gorilla ingabbiato mi fa pensare allo scrittore esiliato. E Sonetti non la prende bene, Sonetti lo guarda, gli dice che non c'è nulla, non è una connessione, diciamo, valida, e gli fa un sorrisino, si alza e se ne va. E Calvino continua la sua riflessione. E io ho pensato: ma come mai l'ha tolto, eccetera, da lì? E l'ha tolto perché in effetti non c'entrava niente. Come l'ho scoperto? L'ho scoperto da un articolo dell'Unità, sull'Unità, che lui aveva pubblicato 15 giorni dopo dal ritorno di Barcellona, dalle giornate di Barcellona. L'ha scritto da Parigi, l'ha pubblicato nel giornale del suo amico Scalfari, e veniva fuori appunto tutto questo ritratto di Onetti, anche se delicatamente lui lo metteva in sigla, no? J-C-O, Non certo Juan Carlos Sonetti, però si guarda bene poi da pubblicarlo tre anni dopo, quando esce in volume. Un'altra cosa che si potrebbe dire, Steven, appunto, è che c'è stato davvero un imperdonabile errore da parte del mondo editoriale spagnolo, quello di non pubblicare Calvino fino agli anni 70. Infatti, questo ti volevo domandare. Però non è tutta colpa di loro, Non è tutta colpa di loro. Calvino è arrivato tardi in Spagna, no? E ancora ci sono alcune opere che io direi che in Spagna sono ancora da scoprire di Calvino. Guarda, se non vado errato, quest'anno si sono messi in pari e stanno, in occasione del centenario, stanno pubblicando tutto, no? Non credo che appunto ci sia qualcos'altro, praticamente diciamo al 90 al 95% è tradotto di quello che è uscito fino a qualche mese fa, ma ora tu sai che sta uscendo cose nuove anche in Italia, molto interessanti, certi carteggi, eccetera. No, il fatto è che tutti si pensavano, non solo tutti, pensavano anche editori e uomini di cultura come Salinas, che era in Alfaguara a quel tempo, nelle sue memorie dice in maniera non è corretta, ma lui dice: guarda, Calvino non si pubblica per questioni censura. No, non è vero, non si pubblica perché Calvino aveva un agente letterario, si chiamava Eric Linder, dell'Agenzia Internazionale, era uno degli agenti più potenti a livello europeo, una specie di Carmen Balcells, per intendersi, no? Però antesignano di Carmen Balcells, che aveva detto: no, non si pubblica perché è già pubblicato in Argentina. Allora, qui c'è intanto da dire che c'è un erroneo punto di vista, quello dell'agente letterario Linder, che nonostante le insistenze, io ho letto le lettere di Calvino a Barral, che spiegava dicendo: guarda, io sto chiamando Linder al telefono, gli sto scrivendo delle lettere, non ne vuole sapere. Linder parla il linguaggio delle cifre, disse a Barral. E lui diceva: no, non è inutile, perché venivano, c'era un punto di vista erroneo allora, che i libri, diciamo, che venivano dalla Latino America erano ricompresi nei cataloghi spagnoli. E quindi dicevano: ma che si traduce a fare? E Calvino diceva: si deve tradurre perché intanto sono tradotto male in Argentina e poi è un altro spagnolo. La cosa si sbloccherà poi morto Franco, e anche poi Linder, non lo so come, ma si convincono e viene tradotto a partire dalla fine degli anni 70, ma in maniera molto, come dire, a gocce, no? Dosificata. Calvino si comincerà a tradurre solo dagli anni 90. Ascolta, ecco, qual è l'opera di Calvino che ha segnato di più, diciamo che è stata più importante nella cultura spagnola, nell'opinione pubblica spagnola? Qual è il Calvino che è stato conosciuto prima e che ha avuto più successo, per capirsi, in Spagna? Allora, bisogna dire una cosa importante che non ho detto, che la prima pubblicazione di Calvino sul territorio spagnolo, guarda caso, è in catalano ed è nel 66. Nel 65, ad opera di José María Castellé, divenuto editore in quel momento con la sua casa editrice Edición 62, che pubblica Il Barone Rampante. Devo dire che Il Barone Rampante, poi, visto che poi negli anni 70 esce la trilogia, la trilogia dei nostri antenati anche in spagnolo, è un po' si comincia a conoscere non il primo Calvino, cioè non il Calvino della letteratura memoriale, del partigiano, eccetera, certo. Ma il secondo Calvino, no? Quello del fiabesco. E poi si passa, tutto dipende da come arrivavano queste traduzioni, perché poi incomincia a essere tradotto. Forse io direi Se una notte d'inverno, un viaggiatore, che fu recensito molto bene, e poi perché nel 79, contemporaneamente, nel giro di pochi mesi, una volta da Parigi, una volta di persona, Calvino viene intervistato per la RTV. Certo, quello gli dà una grande visibilità. Ascolta, Francesco, per chiudere, domanda telegrafica, botta risposta, anzi doppia domanda: qual è l'opera che tu più ami di Calvino, e l'altra invece qual è l'opera che tu, come conoscitore di tutta la produzione di Calvino, suggerisci ai nostri ascoltatori che magari è meno conosciuta e tu dici: andatevela a cercare, leggetevela perché merita davvero, e così conoscete anche un altro Calvino? Beh, è una domanda difficile, molto difficile, perché un'opera è sempre in continuo mutamento, quella di Calvino. Lui sperimenta sempre, è tutta diversa. Io amo, diciamo, quasi tutti i libri di Calvino, però ce n'è uno in particolare che ha segnato un po' il mio amore per la letteratura, che è stato Il Barone Rampante, letto da da ragazzino e riletto e continuo a rileggerlo ancora, sì. Un libro per me bellissimo, determinante, però poi Calvino decolla e va su altri lidi, ma consigliare un libro di Calvino è complicato. Però se devo fare un nome, farei Palomar, perché Palomar è il più autobiografico dei libri di Calvino. Palomar è un po' Calvino, Calvino è un po' Palomar, ed è veramente un catalogo di genialità, ecco, questo libro, allora, dell'83, quasi un testimone finale della sua produzione. Purtroppo lui morirà nell'85. Sì. E Palomar, Calvino, il barone rampante, Calvino e la Spagna. Grazie mille Francesco Luti, scrittore, professore di letteratura italiana presso l'Università di Barcellona, e mi auguro che non passi così tanto tempo prima della prossima intervista come è passato dall'ultima, dalla penultima ormai. Un abbraccio Francesco, grazie. Grazie a tutti voi, buona serata Steven, e in particolare a te un grande abbraccio. No, non ho scritto su Parigi, mi pare. Forse per scrivere su Parigi dovrei staccarmene, dovrei essere lontano, se è vero che si scrive partendo da un'assenza. Oppure dovrei esserci dentro fino in fondo, dovrei esserci stato fin dalla giovinezza, se è vero che sono gli scenari dei primi anni della nostra vita, quelli che danno forma al nostro mondo immaginario. Forse il punto è questo, bisogna che un luogo diventi un paesaggio interiore, in modo che l'immaginazione prenda ad abitare quel luogo, a farne il proprio teatro. Questo brevissimo brano dei Radura Banzo è molto interessante perché tra l'altro ci ha fatto sentire un po' la voce di Italo Calvino. Parigi, no? È il titolo di questa canzone. Sì, Calvino evidentemente non cantava, però così abbiamo comunque ascoltato la sua voce su un brano musicale. È un frammento di un'intervista per la TV della Svizzera italiana del 1974, nel quale, come si è capito, si parla del rapporto dell'autore con la città di Parigi, e Parigi è il titolo del brano, dei Radura, che sono questo gruppo milanese discograficamente attivo dal 2016. Loro si autodefiniscono Cosmic Screamo. Comunque, diciamo un po' sì, le coordinate sono quelle, screamo e mocore, c'è del post-rock nel mix, diciamo. E di questo brano, non so esattamente se definirlo canzone, esiste anche un video con la presenza della ballerina Veronica Colnaghi, che potete trovare tranquillamente su YouTube, è esattamente della stessa durata del brano, perché a volte i video si allungano anche in modo non necessario. E comunque sì, era interessante avere la voce dell'autore in prima persona e non parlare solo di lui, anche se è vero che uno scrittore si esprime principalmente attraverso ciò che ha scritto, però le interviste di Calvino non erano mai banali, anche questo frammento comunque ne avete avuto una dimostrazione. Assolutamente, è proprio così. Andiamo con un'altra canzone, questa forse è ancora più particolare, direi. A one, a two. A one, two, three, four. A Maglie c'era una madre che aveva un figlio. A Maglie c'era anche un padre che aveva un figlio. La madre faceva la maglia, avrebbe voluto una figlia, ma invece le era nato un figlio. Il padre bruciava le foglie, le fradicie foglie di maglie, bruciava foglie sterpaglie, per ordine della moglie. La moglie era nata maglie, e per chi volesse un ragguaglio, maglie sta nelle Puglie. Marito e moglie di maglie avevano lo stesso figlio, un figlio fatto a maglie. E non infeltriva mai. Che che carattere aveva quel figlio. Partorirlo era stato uno sbaglio, padre e madre erano in subuglio. Lui gli avrebbe legato uno scoglio, lei ci avrebbe dato un taglio. Sto figlio rompeva le paglie fin da quando ha avuto le doglie della moglie, la moglie di maglie, le maglie del figlio, le figlio, le foglie, le freglie, le quaglie, le spaglie, le puglie, le caglie, le figlie, le figlie, le paglie, le figlie, le taglie, le quiglie, le paglie, le puglie, le moglie, le figlie, le taglie, le figlie, le foglie. I grandi romanzi fuori dalla letteratura. Questa settimana vi proponiamo Super Senilità, una delle opere di maggior spicco di un uomo così comune da sembrare quasi fuori dal supermercato. Uscite senza. E avete sentito che sono tornati anche gli spot di Zibaldone, che ci servono ovviamente perché noi siamo un programma senza animo di lucro, ma questi spot banzo ci aiutano un po' a fare cassa, come si suol dire, eh? Questi ricchissimi sponsor, mi raccomando, correte in, non so, in edicola, credo, a comprare, non mi hanno dato informazioni più precise, a comprare questo Super Senilità, che peraltro ha uno stile anche prossimo alle nostre anticipazioni, cioè c'è sempre l'enigma, no? Infatti non viene detto chiaramente il nome dell'autore. È così. Ascolta, torniamo a bomba sul brano che ci siamo appena sentiti, la voce era inconfondibile quella di Elio, però si presentavano in questa registrazione come Elio e le Fabie Tese. Le fiabe. Le fiabe, le fiabe. Mi sono mangiato, esatto, un po', perché anche loro giocano con le parole, pure io senza volerlo. Esatto, ma può succedere, Steven, le Fiabe Tese, perché si tratta di un... Torna ancora la Svizzera italiana, in questo caso si tratta di una registrazione per la radio della Svizzera italiana. Si sa che il simpatico complessino Conticino ha un rapporto preferenziale, e d'altronde da Milano la distanza è poca, e nel 2004 appunto alla radio della Svizzera italiana hanno proposto alcune delle fiabe italiane di Italo Calvino, cioè raccolte da Italo Calvino ovviamente nel 1956, in questo modo, ecco, peculiare, che è, diciamo, in sintonia con il loro stile, però che mantiene anche lo spirito dell'operazione calviniana. Assolutamente sì, comunque è sempre divertente, e quel gioco di parole è fantastico, tra maglie, le puglie, i figli, insomma la moglie, eccetera eccetera. E a proposito, Steven, stiamo dimenticando di dire da quale fiaba è tratta questo frammento, che si intitola prevedibilmente A maglie, ed è tratto dalla fiaba dei I cinque scapestrati. Esattamente. Andiamo avanti e troviamo una canzone che ci collega in realtà con le ultime puntate che abbiamo avuto qui a Zibaldone tra fine novembre e inizio dicembre. Sono io, il ciclista che passa per strada al mattino sul presto, cantando, mentre voi vi girate nel letto d'estate al penultimo sonno. Quel canto che non fate in tempo a sentirne la fine e si perde, e non siete riusciti a capire se canto per gioia o per rabbia. Io sono il padrone del mondo, ah, il padrone, e basta che alzi una leva e vi spengo la luna. Rido fuoco al sole buttandoci dentro il carbone. So leggere bene le stelle e c'è scritto la la la la. Sono io, il ciclista che grida correndo alla donna che passa e non guarda. Bella bruna, e le strappo un'occhiata che dura soltanto un secondo, ma in quell'attimo è come se fosse più mia che di tutti voi altri, e continuo la strada inghiottendo aria gelida e canto tossendo. Io sono il padrone del mondo, ah, il padrone. E basta che alzi una leva e vi spengo la luna. Ridò fuoco al sole buttandoci dentro il carbone. So leggere bene le stelle e c'è scritto la la la la. Sono io che disturbi il riposo di voi che tenete in mano i comandi del potere, o magari soltanto vi fate illusion di tenerli e vi dite: ma questa canzone l'annuncio che non conteremo più niente. Od invece qualcuno che vuol canzonare se stesso cantando. Io sono il padrone del mondo, il padrone. E basta che alzi una leva e vi spengo la luna. Ridotto al sole buttandoci dentro il carbone. So leggere bene le stelle e c'è scritto la la la la. Vabbè, la voce bellissima, potente, molto teatrale di Glauco Mauri, Il padrone del mondo, un brano scritto da Italo Calvino nel 1959 che ci riporta, Banzo, alla puntata di Zibaldone della settimana scorsa dedicata ai cantacronache, perché questa canzone di Calvino era appunto in quel quinquennio più o meno in cui i cantacronache, Michele Straniero, di cui appunto abbiamo parlato la settimana scorsa, ma anche Sergio Liberovici, cercavano appunto di proporre un nuovo canzone italiano, riscoprendo anche le canzoni popolari. Sì, questo brano Steven è stato scritto nel 59, però è stato pubblicato successivamente, perché risale alla pubblicazione nel 1967, in un album intitolato 13 canzoni di Sergio Liberovici, ogni giorno, tutti i giorni, e che appunto raccoglieva brani del periodo, fra i quali questo Il padrone del mondo, cantato da Glauco Mauri, che insomma, voce hai detto teatrale, perché era soprattutto un attore teatrale, che però apparve anche in Profondo Rosso come riferimento di cultura pop, diciamo. E Calvino diciamo si cimentò come paroliere, perché appunto in questo collettivo aperto che era il cantacronache ci furono anche letterati che ovviamente si dedicarono alla parte più affine alla loro professione, cioè quella di parolieri. E abbiamo anche in questo senso un altro brano di Calvino da proporvi, che è anche precedente, perché risale al 1958. Sì, tra l'altro la settimana scorsa avevamo anche mandato, per anticipare la puntata di quest'oggi, una versione degli Yo-Yo Mundi di Dove vola l'avvoltoio, che forse è la canzone più importante, più conosciuta, più famosa di Italo Calvino, anche in quel caso scritta insieme a Liberovici. E andiamo appunto con l'altra canzone, in questo caso è la versione molto più recente, di pochissimi anni fa, della Stanza di Greta, canzone triste, ce l'ascoltiamo e poi magari la commentiamo, eccola qui. S'alzava all'alba, prendeva il tram, correva al suo lavoro. Lui aveva il turno che finisce all'alba. Entrava in letto e lei n'era già fuori. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano. Serva il tuo debor. Dopo il lavoro lei faceva spesa, buio era già, le le scale risaliva, lui in cucina con la stufa accesa, fanno da cena e poi già lui partiva. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba il tuo tepor. Mattina e sera i tram degli operai portano gente dagli sguardi tetri, di fissar nebbia non si stanca mai, cercando invano il sol fuori dai vetri. Soltanto un bacio in fretta posso darti, bere un caffè tenendoti per mano, il tuo cappotto è umido di nebbia, il nostro letto serba il tuo tepor. Stanza di Greta, canzone triste, Banzo, un brano tra l'altro che una versione incisa durante il Covid. Ti ricordi il Covid, Steven? Me lo ricordo come. Porca vacca il Covid, no? Vabbè, sì, è una cover pubblicata su YouTube, perché all'epoca si usava ancora così, sembra incredibile, pubblicata il 1 maggio del 2020, perché ovviamente in quell'anno non si tennero le caratteristiche manifestazioni del giorno dei lavoratori, perché eravamo ancora in lockdown. Mi sembra cambio argomento, mi sembra stranissimo parlare di quel periodo. E dunque, tornando a Italo Calvino, il brano era Canzone triste, ancora una volta il team creativo era Calvino ai testi e Liberovici alla musica. Ed era il testo del brano riprende un racconto contenuto negli Amori difficili dello stesso Calvino, uscito nello stesso anno, 1958, cioè L'avventura di due sposi, nella prima parte della raccolta. I racconti hanno appunto per titolo L'avventura di, segue il soggetto del racconto, in questo caso abbiamo due sposi, e questa resa della stanza di Greta, che sono torinesi e si autodefiniscono autori di canzoni pop in metallo e in legno massello, ecco, cosa abbastanza curiosa. Insomma, io qui non sento né la durezza del metallo né la durezza del legno, no. Steven, perché è molto dolce. È una resa veramente dolcissima in punta di strumenti, che secondo me fa onore al testo di Calvino. Sì, tra l'altro, se qualcuno magari ascoltando questa canzone ha ricordato un film di Mario Monicelli che si intitola Renzo e Luciana, che in realtà è un film dentro un film. Nel 62 uscì Boccaccio 70 con quattro film, uno di Federico Fellini, uno di Lochino Visconti, uno Vittorio De Sica e uno di Mario Monicelli. Beh, Renzo e Luciana di Mario Monicelli, se insomma vi siete ricordati quel film, non vi siete sbagliati, perché appunto quel film si basava proprio su l'avventura di due sposi di Italo Calvino, e quindi si riconosce molto in questa canzone quel film, che se non avete visto vi consigliamo di vedere. Banzo, noi siamo arrivati praticamente alla fine di Zibaldone, il programma di un'ora vola, siamo già quasi alle 6, abbiamo però il tempo prima di salutarci anche per annunciare il prossimo brano, che è il brano di chiusura chiusura, che quest'oggi non è l'ultimo trago, ma è sempre legato appunto all'omaggio a Italo Calvino. Allora, sì, c'è bisogno di tempo per presentare questo brano, adesso capirete perché. Allora, il gruppo sono i Lumen e il brano si intitola Three. E quindi, cosa c'è bisogno, di cosa hai bisogno per presentarlo? Ebbene, e qual è il riferimento a Calvino? Si tratta di un gruppo post rock di San Francisco che ha pubblicato solo questo disco bellissimo, e arrivo finalmente a Calvino. Il riferimento a Calvino sta nel titolo dell'album, che è chilometrico. Te lo leggo tutto. Steven, the man felt an iron hand grasping by the hair at the nape, not one hand, 100 hands seized him, each by the hair, and tore him head to foot, the way you tear up a sheet of paper into thousands of little pieces. Questo è il titolo del disco, ed è una frase contenuta in un racconto di Ultimo viene il corvo di Calvino, e il racconto è Campo di mine. Quindi è una frase tradotta pari pari in inglese. È un disco completamente strumentale, quindi non so perché abbiano scelto questa frase di questo racconto di Italo Calvino, che molti americani penso non conoscano neanche. Gli fa onore, comunque, una scelta molto peculiare. Il brano, come sentirete, è molto bello. E se mi permetti, Steven, come ultima considerazione, abbiamo dovuto lasciare fuori molto materiale interessante. Certo. Ci sarebbe stato spazio per una puntata alla vecchia maniera, cioè di 2 ore, di canzoni dedicate a Calvino. Per esempio, c'erano anche dei brani ispirati alla trilogia degli antenati, che oggi non abbiamo potuto coprire. Un brano per sola fisarmonica di What Capitalism Was, per esempio. Però sicuramente diciamo che l'opera che ha attratto di più l'attenzione dei musicisti è Le città invisibili. Abbiamo cominciato con il reading di Giovanni Succi. Ci sono tantissime, tantissime opere ispirate alle città invisibili, non le posso elencare tutte, gli stili più svariati. Ad esempio, nel 2023 è uscito un disco per fisarmonica microtonale che è completamente ispirato di Iacomucci, completamente ispirato alle città invisibili. Quindi è un'opera che a tanti anni di distanza dall'uscita mantiene intatto un fascino, una capacità di ispirare gli artisti veramente notevole. Per esempio, prendete anche Zimmerude, una delle città invisibili, trovate almeno 6-7 brani con questo titolo. Sì. Magari ci torneremo, sicuramente Calvino merita anche un'altra puntata, e magari proprio su questo è anche una buona ragione per tornarci. Noi siamo alla fine, buon venerdì sera a tutti, ci ritroviamo la prossima settimana, come era solito dire il primo sindaco socialista di Madrid dopo la fine del franchismo, Enrique Tierno Galvana, alle 17.56, diceva tutti i venerdì: mi raccomando, andate in edicola a comprare Super Senilità prima di essere troppo vecchi per farlo. Speriamo proprio così. Ciao Banzo, grazie, buon venerdì sera a tutti. Loro sono i Lumen, bye bye.